La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato ai 60 anni di regno di Elisabetta II, regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda. Ospite ai nostri microfoni Matthew Ford, docente di storia della cultura inglese presso l'Università LUMSA di Roma. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato al sottosuolo della città di New York, un immenso labirinto nascosto scavato sotto il più celebre skyline del mondo. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. L'Inghilterra ha appena festeggiato in modo solenne e con grande partecipazione i 60 anni di regno della regina Elisabetta. 86 anni, la regina Elisabetta è una delle sovrane più longeve della storia d'Inghilterra. Era giovanissima, aveva solo 26 anni, quando nel 1952, alla morte del padre, re Giorgio VI, salì al trono d'Inghilterra. Prima di lei solo la regina Vittoria aveva regnato più a lungo, ben 63 anni. Regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda, primogenita del duca e della duchessa di York, Elisabetta nasce a Londra il 21 aprile 1926. 5 settimane più tardi viene battezzata nella cappella di Buckingham Palace con il nome di Elisabetta Alessandra Maria. A 18 anni diviene consigliere di Stato, figura di grande rilievo nel Regno Unito. Il 20 novembre del 1947 si sposa con un suo lontano cugino, il duca di Edimburgo, Philip Mountbatten. La principessa ha solo 21 anni, ma già una donna matura e dal carattere deciso e determinato. Da lì a poco, nel 1951, il padre, re Giorgio VI, muore ed Elisabetta si trova improvvisamente alla guida di uno dei troni più importanti del mondo. Regina molto popolare e amata, non risparmia la sua presenza in pubblico, e riesce ad avvicinare le ovattate stanze della famiglia reale alla gente comune. Nel 1977 Elisabetta celebra il Giubileo d'Argento, vale a dire il 25esimo anniversario della sua ascesa al trono, mentre nel 2002 solenni festeggiamenti celebrano i suoi 50 anni con la corona. Dal matrimonio nascono 4 figli, il notissimo principe Carlo, il principe Andrea, la principessa Anna e il principe Edoardo. Il giorno in cui la regina Elisabetta fu ufficialmente incoronata al trono fu uno degli eventi più spettacolari della storia contemporanea. Receive the royal scepter, the ensign of kingly power and justice. Receive the rod of equity and mercy. Be so merciful that you be not too remiss. So execute justice that you forget not mercy. O God, the crown of the faithful, bless, we beseech thee, this crown, and so sanctify thy servant Elizabeth, upon whose head this day thou dost place it for a sign of royal majesty. God save the Queen, Dio salvi la regina. Da un lato la continuità con la tradizione monarchica che fa della Gran Bretagna una sorta di unicum nella storia contemporanea, dall'altro il tentativo di adeguare la monarchia al mutare degli eventi, sia sul fronte dell'indipendenza che viene concessa nel corso degli anni alle colonie dell'ex impero britannico, sia sul fronte dei mutamenti avvenuti nel costume stesso della società inglese. L'attenzione quasi maniacale degli inglesi alle questioni private della famiglia reale è notissima, basti ricordare quel che avvenne in seguito alla morte della principessa Diana, moglie di Carlo. Nonostante tutto, gli inglesi però amano la corona, si identificano nei valori che per secoli Buckingham Palace ha tramandato, pur nel mutare degli equilibri mondiali. Allora, di tutto questo parliamo con Matthew Ford, che è docente di storia della cultura inglese presso l'Università LUMSA di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, ci aiuti un po' a comprendere intanto il legame che noi dall'Italia vediamo, osserviamo, che però difficilmente si riesce a comprendere se non si va un po' più a fondo, il legame profondo che lega gli inglesi alla corona. Sì, I mean, c- ciò che è molto interessante anche di questi festeggiamenti è che in un certo senso confermano ancora una volta quanto il Regno Unito diverge dal resto dell'Europa, una grande nazione che ha conservato questa monarchia. Vediamo oggigiorno questa enorme popolarità, ma non dovrebbe sorprenderci. La monarchia gode di questi altissimi livelli di popolarità dalla regina Vittoria in poi. In Italia abbiamo visto questo il film, il discorso del re Giorgio VI, il padre di Elisabetta II, e durante la guerra anche la monarchia raggiunge altissimi livelli di popolarità. Quindi è più una questione è perché non dovrebbe essere popolare. Certo. E qui non ci sono motivi. Elisabetta II ha agito in modo quasi impeccabile a livello del protocollo pubblico, a livello costituzionale. Per di più, io sottolineerei il fatto che abbiamo visto nel Regno Unito, ma anche nell'Occidente in questi decenni, quasi un crollo della popolarità dei politici, dei partiti politici, anche delle istituzioni politiche. La monarchia ha evitato in Gran Bretagna questa deriva, anzi forse è stata vantaggiata proprio da questo sviluppo, perché rimane un'istituzione inattaccabile in un certo senso davanti all'opinione pubblica. Questo che lei dice, professor Ford, è molto interessante, perché non solo in Italia ma ovunque in Europa stiamo vivendo una crisi della politica, anche per la verità, vogliamo dirlo, anche per una, diciamo, carenza di leadership in Europa. Il fatto che in Inghilterra questo elemento non si sia osservato, comunque non si sia verificato, è un elemento di forza obiettivamente della Gran Bretagna. È un elemento di forza senz'altro. Si può, prendendo questi ultimi 200 anni in Europa, in Occidente, vedere il trionfo della democrazia e la monarchia che esce dalla scena. Non è così in Gran Bretagna, anzi molti degli elementi della democrazia oggigiorno non godono della popolarità del passato. Comunque io forse aggancerei il discorso del successo della monarchia, del prestigio della monarchia nel contesto in Gran Bretagna, ma anche in Occidente, della postmodernità, il venir meno dei legami sociali, lo sfaldamento della comunità, è sempre di più una distanza che c'è tra i governati e coloro che governano. La monarchia non governa, svolge un ruolo ben diverso, anzi io direi che Elisabetta II nel Regno Unito ha meno poteri politici dell'esempio il Presidente della Repubblica qui in Italia, quindi rappresenta qualcosa molto particolare di identità, particolare, certo, in termini della memoria storica nel Regno Unito, in un'epoca quando molti punti di riferimento, insomma, sono in grande crisi, o così sembrerebbe. Veniamo alla figura di Elisabetta d'Inghilterra. Certamente, come lei osservava poc'anzi, è stata, dal punto di vista del rispetto del protocollo, ma non solo, direi anche dalla sua capacità di dialogare anche con l'opinione pubblica, un'esperienza veramente unica nella storia contemporanea. Allora, che bilancio si potrebbe trarre di questi 60 anni di regno di Elisabetta? Soprattutto ha ereditato il trono, un trono molto forte da parte del padre, e consegnerà un trono molto forte al figlio. Quindi senz'altro ha continuato di consolidare, anzi rafforzare, questa importantissima istituzione. Allo stesso tempo però è una persona che ha mostrato notevole capacità a livello di oggigiorno noi chiamiamo relazioni pubbliche. Questo lo fa a diversi livelli, conosciamo bene i rapporti internazionali, i rapporti diplomatici, qui si può ricordare l'enorme successo l'anno scorso della sua visita alla Repubblica d'Irlanda, ma anche, e questo è un punto che io sottolineerei, è una persona che ha sempre voluto stare tra la gente, quindi costantemente queste visite alle città, alle contee, i discorsi, cioè è una persona che sempre ha voluto questi contatti diretti, no? Quindi sì. Non è una persona della televisione come i politici nazionali, è una figura da questo punto di vista in termini dell'interazione con i sudditi o i cittadini, possiamo usare la parola che vogliamo, molto particolare e molto diretti. Ecco, un'ultima domanda, professore. Noi siamo sempre molto anche incuriositi, attratti dalla figura della regina e in genere insomma di Buckingham Palace all'interno della Gran Bretagna. Come però lei colloca una funzione così importante all'interno del paese, ma riverberata un po' più a livello internazionale? Soprattutto mi viene in mente la crisi che sta vivendo in questo momento l'Europa. È una figura, io direi, molto particolare all'interno di un contesto nazionale britannico che diverge molto ormai della prassi del continente d'Europa. Esatto, esatto. Comunque, esatto. Forse possiamo alzare un po' la prospettiva. Oggigiorno, grande difficoltà dell'Unione Europea, grande difficoltà della moneta unica, la sterlina che porta ancora il viso della regina esiste, c'è stata grande opposizione popolare a entrare la moneta unica, ma in fondo oggigiorno, forse come nel passato, la manica è più grande dell'Atlantico. Cioè la monarchia britannica non è soltanto una monarchia britannica, è una monarchia di Canada, di Australia, di New Zealand, quindi fa parte di quel blocco anglosassone dei popoli che parlano l'inglese, con il quale i britannici si identificano molto di più che con il continente europeo. La ringrazio molto, professore, e buon lavoro, buona serata. Grazie, buonasera. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato al sottosuolo della Grande Mela. New York, con più di 8 milioni di abitanti, è la città più popolosa d'America, celebre nel mondo per il suo skyline. Ma sotto ai grattacieli giace un sottosuolo pieno di misteri. Vi racconteremo oggi della prima ferrovia sotterranea e di misteriosi tunnel usati per combattere guerre tra bande. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 11 giugno alle 23 su History Channel. New York è famosa per la sua metropolitana, che trasporta milioni di persone per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E molti newyorkesi vi diranno di conoscerne ogni angolo dei suoi 1355 chilometri di lunghezza. Per più di un secolo sono girate delle voci su un tunnel fantasma, una linea dimenticata, precedente anche alle metropolitane più vecchie del mondo. Ed è proprio così che è rimasta chiusa e dimenticata, finché un gruppo di esploratori urbani non è riuscita a scovarla nel sottosuolo di New York. Tutti pensano che la metropolitana più vecchia del mondo sia quella di Londra, ma in realtà New York ha aperto il suo primo tunnel sotterraneo quasi 20 anni prima che la rete londinese entrasse in funzione. La linea corre 10 metri sotto la Atlantic Avenue a Brooklyn. Ma non è solo una reliquia della vecchia New York, il tunnel è una vera leggenda. I contrabbandieri vi depositano le casse di alcol, un assassino vi nasconde il suo diario e la più potente società segreta della nazione, la massoneria, vi getta le fondamenta della più antica stazione della metropolitana. Costruire un tunnel ferroviario sotterraneo nel 1844 richiede denaro e agganci politici, e la massoneria è l'unico soggetto in grado di compiere l'impresa. Nel 1980 l'esploratore urbano Bob Diamond riesce a portare alla luce il tunnel e i suoi segreti. Bob individua la probabile posizione del tunnel grazie a un giornale del 1911 e a una mappa del 1868. Si ritrova così a strisciare in un tunnel interrato sotto le strade di Brooklyn. Insieme ad alcuni amici riesce a spalare 76 metri cubi di detriti a mano prima di incontrare un muro di cemento al di là del quale, secondo lui, si apre il tunnel vero e proprio. Non rimane che farlo saltare. La metropolitana di New York apre ufficialmente nel 1904, ma questo tunnel risale a 60 anni prima. È lungo quasi un chilometro ed è il capolinea della ferrovia di Long Island davanti all'East River. Viene scavato per permettere ai treni dell'epoca, dotati di freni poco affidabili, di fermarsi senza creare problemi al traffico di superficie. Bob Diamond, esploratore urbano. In pratica qui si uniscono elementi della rivoluzione industriale del XIX secolo e le tecniche costruttive dei romani, perché i sottopassi delle vie consolari romane di 2000 anni fa assomigliano molto a questo tunnel. L'antica tecnologia romana e la rivoluzione industriale si incontrano in questo metodo detto taglia e copri. Invece di scavare un tunnel sotterraneo, gli operai sbancano la strada utilizzando pale e picconi. Realizzano così una fossa profonda 10 metri, larga 11 e lunga 800, che viene rivestita con uno zoccolo di roccia di Manhattan, largo 1,80 m alla base e 1,20 m in cima. Poi viene realizzato un soffitto ad arco di mattoni, sul quale viene di nuovo stesa la strada. La struttura è così resistente che ancora oggi potrebbe sopportare un peso 6 volte maggiore rispetto a quello che già sostiene, tra edifici, strade e auto. Come fecero a realizzare un'impresa simile a quei tempi? Ancora Diamond. Bastò coinvolgere la gente giusta. Intanto il responsabile della costruzione era Cornelius Vanderbilt. Poi si assunsero 900 operai irlandesi più forti di una pala meccanica. E infine, a quel tempo, non si muoveva nulla senza l'intervento della massoneria. La massoneria interviene in tutti i passi fondamentali della nascita degli Stati Uniti. George Washington e Benjamin Franklin sono massoni. Forti militari, edifici federali, lo stesso impianto urbanistico della capitale. I massoni pianificano ogni progetto infrastrutturale del paese. Il governatore dello stato di New York all'inizio dell'Ottocento, Dwight Clinton, è un gran maestro della massoneria ed è tra i promotori di progetti come il canale Erie e il Consiglio per l'Educazione. Anche i più importanti funzionari e ingegneri della città sono massoni e giocano un ruolo fondamentale nel far diventare questo progetto realtà. Bob Diamond, esploratore urbano. L'uomo che salì alla guida del Partito Federalista e della massoneria dopo la morte di Clinton fu Rufus King, uno dei firmatari della Costituzione. Suo figlio John King era quello che aveva avuto l'idea di costruire la linea di Long Island per collegare New York a Boston. Nel 1859, però, il progetto viene affossato dalla corruzione. Uno speculatore edilizio riesce a farlo dichiarare pericoloso per la comunità, il che gli permette di raccogliere denaro pubblico per la demolizione. Ma invece di distruggerlo, fa costruire due semplici muri ai capi del tunnel, intascando il resto dei soldi. $130,000, equivalenti a 3 milioni di dollari attuali. Per 150 anni, il luogo diviene la sede di ogni genere di attività illecite. All'inizio del Novecento si dice che vi sorga il quartier generale di un contrabbandiere di whisky. Poi, negli anni venti, diventa un cimitero per le vittime della famigerata mafia newyorkese. Milioni di immigrati hanno reso New York City la città che è oggi. Ma all'inizio la vita per chi arrivava qui non era facile. Si combatteva ad ogni angolo di strada. Così nacquero diverse enclave, strette l'una all'altra nel cuore della Grande Mela. Gli irlandesi a Five Points, gli italiani a Little Italy e a Chinatown, due tra le gang più pericolose in assoluto. Tutti combattevano per il territorio, scontrandosi per le strade e nel sottosuolo. Situata nel Lower East Side di Manhattan, Chinatown copre 5 km quadrati ed ospita più di 100.000 persone. A partire dal 1870 l'area diventa un rifugio sicuro per gli immigrati cinesi, fino a quando la guerra tra bande la trasforma in uno dei quartieri più pericolosi della storia di New York. Art Zuckerman è un esperto del quartiere. Chinatown si è allargata enormemente, ma si può dire che sia iniziato tutto da qui. Possiamo immaginarci gli anni tra il 1870 e l'inizio del Novecento, quando qui era pieno di fumerie d'oppio, case da gioco, bordelli e ogni altro genere di esercizio. E tutto questo era sottoterra. Certo, ci si doveva nascondere dalla polizia. Alla fine dell'Ottocento, Chinatown è un paradiso per ogni tipo di attività illegale. È il centro di potere delle bande locali. A quel tempo l'immigrazione cinese negli Stati Uniti raggiunge valori record. Più del 70% degli operai che realizzano la ferrovia transcontinentale è cinese. Ma vengono trattati come schiavi, senza alcun diritto, e sono sotto la costante minaccia di aggressioni a stampo razzista. Ancora Zuckerman. Sulla costa occidentale ci furono veri massacri. I cinesi non avevano diritti giuridici. Vennero qui perché qui tutti erano immigrati. Come gli irlandesi a Hell's Kitchen e gli italiani a Little Italy, i cinesi si riuniscono in piccole comunità. Danno vita ad associazioni, a società segrete e sviluppano un'economia sotterranea autosufficiente. Ma i club dove si riuniscono i nuovi arrivati sono anche il luogo di raccolta di potenti bande chiamate Tong. Le Tong sono la versione americana di un'antica società segreta cinese conosciuta come Triade. Le Triadi si formano nel XVIII secolo in Cina per rovesciare la dinastia Qing. Sono formate da guerrieri ribelli e ben addestrati. Quando si ritrovano a New York, i membri delle Triadi diventano capibanda che storcono il pizzo e gestiscono lo schiaffari. All'inizio del Novecento, le due Tong più potenti, Hon Leong e Ip Sing, insanguinano le strade contendendosi i business più profittevoli: il gioco, l'oppio e la prostituzione. Ancora Zuckerman, esperto di Chinatown. Le armi più usate erano le mannaie, le armi da fuoco erano troppo costose. Puoi immaginarti quei combattimenti, si facevano letteralmente a pezzi. Era una zona di stampo quasi rurale e molto violenta. La zona più pericolosa di Chinatown è l'angolo del sangue. Nel punto in cui Doyle Street fa alcune curve, è un vero e proprio campo di battaglia per le gang. Ancora Zuckerman. Oltretutto, il sottosuolo di questa zona è pieno di tunnel e passaggi, tutti punti tattici e di sorpresa che permettono l'aggressione ai rivali. Oltre ai vicoli e ai portoni, le bande cinesi utilizzano anche un labirinto sotterraneo di tunnel e tombini per lanciare attacchi a sorpresa o per scomparire in caso di retate della polizia. Ancora oggi, gli abitanti del luogo mantengono il segreto sui sotterranei e molti tunnel rimangono inaccessibili. Oggi è la sede del centro commerciale Wing Fat, ma all'inizio del Novecento è il territorio della Tong Ip Sing e del suo capo Mok Duck, che gira indossando una cotta di maglia e ha sempre con sé due pistole e una mannaia. Il tunnel di Mok Duck nasce come ambiente di stoccaggio della birra nel XVIII secolo. Con l'espansione di Chinatown, il tunnel torna in uso collegando Chatham Square con un teatro, uno dei principali ritrovi del tempo. Gli artisti lo utilizzano per lasciare il teatro, così come le Tong. Ancora Zuckerman. Al teatro ci andavano tutti e capitava che fossero presenti contemporaneamente membri delle diverse bande. Ma nell'agosto del 1905 qualcosa andò storto. Ci fu una lite e iniziarono a spararsi all'interno del teatro. Ci furono dei morti. Alla fine dello scontro i morti sono quattro. Con la polizia alle calcagna, i membri delle Tong fanno sparire i corpi nell'interrato del teatro e nel tunnel. La guerra tra le Tong infuria per anni. Nel 1909 50 uomini vengono uccisi in una sola sparatoria all'angolo del sangue. E bande chiamate Dragoni Volanti e Ombre Fantasma continuano tuttora a contendersi l'isolato e i suoi sotterranei. New York sorge su una montagna di segreti. Tunnel usati per combattere guerre tra bande. La prima ferrovia sotterranea. Questa metropoli deve la sua grandezza ad imprese sconosciute e ad attori dimenticati, decisi a costruire la città più verticale del mondo, scendendo sottoterra. Avete ascoltato il documentario narrato da Brad Meltzer, realizzato in collaborazione con History Channel, dal titolo Le radici della grande mela. Produttore esecutivo Lauren Lexton, titolare dei diritti A&E Television Networks. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 11 giugno alle 23 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.